Eccoci, naufraghi ancora. La corrente va, terra dove sta. Sfidiamo la notte scura, come in cerca di una rotta certa, ma poi distratti da stelle brillanti ci perdiamo. Un po' per natura galleggiamo tra favole e realtà, nuotare a dorso è la cura, non ci salverà, ma si vede il cielo così, rapiti da stelle distanti.